andrà il podcast e la playlist di oggi. Salutiamo Alessandra qui da Roma, Maya presentissima come al solito dall'Argentina, dall'altra parte dell'oceano. Ugo qui da Roma, come anche Luciano, Govind Curana da Ferrara, lo salutiamo. Dunque, 2 luglio 2018. Diciamo ultimo mese di trasmissioni, perché ad agosto, come la radio in toto, ci sarà una piccola pausa. Salutiamo anche Giovanni dalla Puglia e noi iniziamo con un artista italiano, esattamente di Venezia, che abbiamo conosciuto qualche mese fa proprio grazie a Govind Curana. Sto parlando di Alberto Nemo, al suo attivo due lavori, e noi per l'appunto qualche mese fa e in sede di prove tecniche di trasmissione ci ascoltammo 6x0. In realtà poi questo album fu anticipato da un altro 6x0, però dal vivo e con vicino alla scritta volume 1. Le tematiche sono più o meno quelle. C'è di mezzo i Deccan Dance, ci sono mezzo i Coil, c'è di mezzo Anthony The Johnsons. Questi sono gli splendidi elementi che vanno a comporre la bellissima arte di Alberto Nemo. Ci ascoltiamo Anthropophoros e 13 lucertole. Ancora Alberto Nemo da questo 6x0 volume 1 live. Un saluto a Buena Lupo, questa volta dall'Italia. Per dormire. E come inizio direi che non c'è male la splendida voce di Alberto Nemo. Alberto Nemo, personaggio proveniente da Venezia, all'attivo due lavori. Appunto a questo 6x0 Live volume 1 e un altro album dal nome 6x0, due album che consiglio assolutamente. E sono giuste anche le osservazioni di Fabiola, come già detto all'inizio, cioè che c'è anche della Lisa Gerrard dei Deccan Dance nelle corde, ritengo, di Alberto Nemo, come in altre circostanze possono venir fuori gli antichi ricordi legati ai Coil di John Balance e anche la voce di Anthony The Johnsons. Una delle rivelazioni di questo 2018, devo dire, di questo devo ringraziare una persona. Esattamente Govind Singh Khurana, di origine indiana, come si può intuire dal nome, ma italiano di Ferrara, responsabile anche della New Model Label, che c'entra e anche molto nella stesura di questo lavoro, insieme alla Dimora Records. Questo era un live, in realtà, registrato benissimo, tra parentesi, registrato il 1° novembre del 2016, appunto al Dimora, impresa diretta, Dimora a Rovigo, sempre in Veneto. La viola è arrangiata e suonata da Guido Frezzato, alla voce, pianoforte e musica, naturalmente, Alberto Nemo. Un saluto a Riccardo da Taranto, di nuovo Buenalupo, non dal Portogallo, ma appunto dall'Italia. E di nuovo benvenuto a Fabiola. Abbiamo aperto con Alberto Nemo, con queste atmosfere così, direi anche e neanche troppo vagamente etniche, discesamente etniche. Ce ne andiamo in Gran Bretagna, Nature and Organization, un album e un artista di breve durata. Lui è Michael Cashmore, collaboratore in passato di Current 93, Death in June ed altri. Tutti amici radunati in questo disco, Beauty Rips and the Blood of Solitude, radunati a collaborare anche Nurse with the Wound nella persona di Steven Stapleton. Sprazzi di sperimentazione, ma neofolk, soprattutto neofolk in questo album. Ci ascoltiamo Blood of Solitude numero 2 e Bone White Glory.